la politica come servizio c'è da tutte le parti, perché non creda che per quanto mi riguarda la politica per me sia un guadagno, semmai è il contrario, però è un servizio, lo faccio molto volentieri, con molto impegno, con molta dedizione, da quando ho avuto l'onore di rappresentare il territorio della mia provincia, Belluno, in Parlamento. E questo deve essere un punto fermo assoluto. Onorevole, mi scusi, però, mi scusi onorevole. Ho già detto anche molte volte che se ci sono politici che abusano del loro ruolo, sì, e compiono degli illeciti, devono essere processati addirittura con una corsia preferenziale rispetto agli altri cittadini italiani. È una posizione che ho esternato più volte, però il fatto che ci sia qualcuno che compie degli illeciti, che abusa del proprio ruolo, non significa che si debba fare di tutta erba un fascio. Sì, questo sì, però onorevole, due osservazioni da fare. Lei è quello che ai nostri microfoni disse che se va bene le rimangono 300 euro, adesso dice che non solo... Lo stipendio di parlamentare rimane pochissimo, anzi posso dirle per quanto mi riguarda che non rimane nulla, perché volentieri intervengo sul territorio con moltissime iniziative e lo faccio perché ritengo che sia un mio dovere, avendo la possibilità di farlo. Ma se Davide Bono ci dice che con 2.500 euro al mese si vive e 8.500 sono tantissimi e più o meno la paga da deputato è anche di più di 8.500 euro. No, per la verità la paga dei deputati è molto meno di 8.500 euro, come lei sa perfettamente, e sono stati pubblicati recentemente gli studi che hanno stoppato qualsiasi tipo di illazione a proposito del compenso dei parlamentari e del costo dei parlamentari italiani rispetto ai parlamentari europei delle nazioni più o meno omologhe, Francia, sì, Germania, sì, eccetera, e si è accertato che gli italiani sono quelli che costano di meno al contribuente.